venite qua, venite qua, venite qua, qua, qua, qua, venite qua, venite qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, venite qua, qua, qua, qua. Alla vendetta! Bravissimo, suono contento, colpi subito l'accompagnamento. Spring, spring. I cannot hide. Such a risky.